America 24 di Mario Platero. Hi Mario, how are you? Very well, Alan. How are you? Good. Okay, so we have some good numbers in the economy. What's the mood, you think? Buongiorno da New York, Mario Platero. Benvenuti ad America 24. The mood, l'umore, non è buono. Avete sentito una mia chiacchierata con Allen Sinai, grande economista americano. E venerdì, però, avevamo avuto un tasso di crescita del 5,7% per il quarto trimestre 2009. Obama era raggiante, i mercati forse un po' meno, visto che hanno chiuso al ribasso. Abbiamo avuto circa il 5% in pochi giorni, il 3,9% di ribasso per gennaio, brutto segno questo, anche perché in genere quello che succede a gennaio poi ha una proiezione per il resto dell'anno. Restano i mercati nervosi anche adesso. Possibile in questa situazione di crescita? Beh, possibile, perché fra poco avremo i dettagli del Blue Book, la finanziaria Obama per il 2011. È atteso un disavanzo record, circa 1.350 miliardi di dollari, e le misure di stimolo non bastano più. Sentiamo Sinai. The real GDP number good on the surface. Il dato per la crescita è buono in superficie, dice Sinai. In effetti il tasso è stato il migliore in 6 anni. Se però scaviamo, osserva l'economista, si vede che il traino per la crescita è dato dalla ricostituzione di scorte di magazzino, più 3,9%, che non si ripeterà. Di più, le vendite finali sono state soltanto del 2,4%. Insomma, brutta storia, perché i consumi sono quelli poi che contano per il 70% dell'economia. Restano deboli e l'occupazione non parte. Tiriamo comunque le fila per il 2009, un anno recessivo. La caduta del PIL è stata del 2,4%, la più forte dal 1946, quando la contrazione fu del 10%. Allora però c'era il passaggio da un'economia di guerra a un'economia civile. Per i prossimi trimestri si dice che la crescita si stabilizzerà attorno al 2-2,5%. Per noi europei sarebbero risultati ottimi, per l'America no. Il tasso di disoccupazione, dice Sinai, resterà fermo al 10% per tutto l'anno. Ci vuole di più. Sentiamo i suoi consigli. Avremo bisogno di qualcosa di molto più importante di quanto è contenuto nel bilancio 2011, che comincerà peraltro a ottobre, dice Sinai. Ad esempio, il congelamento delle spese discrezionali proposto in questo bilancio, dice, non funzionerà mai, a parte che saranno poi 25 miliardi di dollari all'anno per i prossimi anni su un disavanzo totale di circa 1.350 miliardi. E poi il taglio, ad esempio, del programma Constellation per la NASA, che di nuovo è contenuto in questo bilancio come fonte di risparmio, di nuovo lascia molti dubbi. L'uomo non tornerà più sulla Luna nel 2020, come promesso, un sogno svanito, in cambio di tagli molto modesti, sembra che siano forse 2 miliardi di dollari, e in cambio poi di un costo altissimo in rinuncia in progresso tecnologico, anche e soprattutto per le aziende private. Ne valeva la pena? No, dice Sinai, ci vuole qualcosa di molto più drastico di quello che propone Obama, perché la politica monetaria e fiscale ormai non servono più, i tassi sono già negativi in termini reali, il disavanzo alle stelle impedisce di agire sulla spesa, e dunque cosa suggerisce Sinai? Per ridare fiducia al mercato e ai consumatori sarebbe meglio procedere con tagli delle tasse molto mirate, ad esempio riduzione dei contributi sociali o altri carichi fiscali per la classe media. Sarà possibile? Difficile. E comunque, anche se il 2010 si chiuderà quasi certamente in nero, quindi con un tasso di crescita positivo, sarà poi il 2011 ad essere di nuovo a rischio di ricaduta. Questo è il pronostico di Sinai, e per questo i mercati hanno paura. Aste, si fa il bilancio della settimana delle aste, degli old masters, i vecchi maestri, aste che si sono tenute a New York la settimana scorsa e non sono andate affatto male. Fra Sotheby's e Christie's hanno battuto rispettivamente 61 milioni e mezzo e 39 milioni e mezzo, totale 100 milioni di dollari puliti. Alcuni collezionisti che abbiamo sentito ci hanno raccontato di qualche follia, ad esempio che il chiacchiericcio intorno a un'opera conta più del suo valore oggettivo. Prendiamo il ritratto di Dama la Belle Ferronière, un falso, anzi il falso più famoso attribuito a Leonardo da Vinci, beh, è stato battuto da Sotheby's per 1,5 milioni di dollari, il triplo della stima iniziale, che era fra i 300.000 e i 500.000 dollari al massimo. Ma l'originale è al Louvre a Parigi, e dunque l'emulazione conta. Comunque sia, Attorno a questa settimana d'asta c'è, come sempre, mondanità, networking, parties, mostre private. Ad esempio, alla Galleria Van den Weg c'è stata una mostra di grandi maestri con le opere di due mercanti d'arte italiani che lavorano a Londra, Edmondo di Robilan e Marco Voena. Di Robilan, perché questa mostra intanto? Perché, come storicamente, ci sono stati dei assai importanti collezionisti in America dalla metà dell'Ottocento fino agli anni 30, 40, 50. Ancora oggi ci sono dei collezionisti molto importanti, i quali sicuramente vengono anche in Europa, però molti, soprattutto quelli non strettamente newyorkesi, vengono più volentieri a New York. Abbiamo dei clienti nel Texas che amano i fondi oro, abbiamo dei clienti qui a New York che amano le vedute, abbiamo clienti che amano quadri barocchi, ognuno ha le sue specifiche e poi alcuni fanno un po' di tutto e amano un po' di tutto. E voi ne accomodate il mercato a queste aste? Bene, bene, il mercato dell'arte, insomma, degli alti e bassi, un modo un po' isterico di comprare, cioè dove alcune cose fanno cifre altissime, altre anche interessanti culturalmente o comunque degne per autori abbastanza importanti, vengono vendute a cifre molto basse che, insomma, chiunque potrebbe comunque acquisire. È strano che nello stesso giorno si possano comprare dei degnissimi quadri di buona fattura e di buoni artisti per delle somme comunque che sono ancora relative al contemporaneo, poi addirittura regalate, e allo stesso tempo vedere dei prezzi abbastanza schizofrenici per delle opere che in fondo non li meritano. Si è visto un'opera di un artista italiano importante, si chiama Gaetano Gandolfi, che è un artista bolognese che comunque è stato venduto a una cifra che è un record price per l'artista, perché è 3 milioni di euro, di dollari più o meno. Questa è una cifra un po' strana per l'artista importante, ma medio. Mentre invece quadri, diciamo, chiamiamoli cheap, tra virgolette, ci sono stati alcuni quadri, ad esempio del 600, come non so, un Simon Vouet, che è stato venduto a 100.000 dollari. E poi invece il Getty Museum ha comprato il quadro forse più importante della settimana, in questo quadro di un pittore francese che è un neoclassico, diciamo, per dare una definizione riassuntiva, che si chiama Boyer. Ci sono anche uno o due clienti privati italiani che pensiamo siano loro aver comprato certe cose. Del vedutismo e delle cose così. C'era un bellissimo Cardevaris, che è un pittore veneto dell'inizio del Settecento, che è stato comprato probabilmente da un cliente milanese. Sappiamo di uno o due quadri importanti che sono stati comprati da musei italiani o da comunque fondazioni italiane. Beh sì, in effetti Di Robilan ci ha appena detto che ci sono state fondazioni italiane, e ho avuto la conferma che una delle fondazioni italiane che ha acquistato qui a New York nei giorni scorsi è proprio quella del Monte dei Paschi di Siena, che ha la missione di riportare a casa, a Siena, opere dei suoi antichi maestri. E così un prezioso reliquario del 1300 di Francesco di Vannuccio, che era stato nel chiostro del Metropolitan Museum, è stato battuto da Sotheby's a favore dell'istituto e dopo secoli tornerà a casa. Abbiamo con noi Marco Parlangeli, il direttore generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ci racconta intanto come hanno saputo di questa opportunità. Quando si preparano a mettere in asta opere di scuola senese, ovviamente ci avvisano e noi attiviamo tutto il processo istruttorio con sopralluogo, verifica. Sì, in questo caso noi eravamo collegati per telefono con un nostro corrispondente, la base d'asta era 200.000 dollari, con successivi rilanci ce la siamo aggiudicata a 850.000. Ecco, dottor Parlangeli, sappiamo che la vostra missione è appunto quella di riportare opere senesi in Italia, o comunque a Siena. Quante ne avete recuperate finora? Dunque, finora abbiamo 57 opere nella nostra collezione, di cui circa una decina, 12 sono state acquistate in asta, il resto con trattativa privata un po' in tutta Europa. Ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma che resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che da New York vi porterà sulla sponda americana. Ve ne segnalo uno: Michael Douglas, Gordon Gekko, lo spietato finanziere di Wall Street, il film del 1987 di Oliver Stone, torna con Wall Street 2, Money Never Sleeps. Uscirà in aprile, ma i trailer sono già su internet, stessi protagonisti e regista. Narra degli eccessi della finanza alla vigilia della crisi e vi rivelo un segreto. Gekko sarà il buono, pensate che cattivi sono gli altri. Questo lo so perché ho passato una giornata sul set con Stone e Douglas, ma vi racconterò meglio la prossima volta. Eccoci invece alla canzone del giorno. Lady Gaga, la nuova icona del pop, ha aperto ieri i premi Grammy in un duetto con Elton John. Per il Wall Street Journal è il nuovo modello di successo femminile. Dedichiamo dunque a tutte le donne che ci ascoltano, di successo, che aspirano al successo o più semplicemente normali, questo piccolo capolavoro di Lady Gaga, Bad Romance, storia andata male. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, domani, goodbye and get going!